Mi arrendo, alzo le braccia, ricadono di ottone e alabastro, il soprammobile cuore resta di sasso e scivola così lento come un calcolo ad occupare il palloncino verde bile, poi più giù si insedia nel sacchetto floscio della matrice dove impreziosisce e prende fuoco la miccia carotide. Implodono parole dalla tua bocca alla mia bocca dello stomaco e sgomitano. E così arguisco nella centrifuga di un'occhiata maligna la pura verità di uno sgomento. E così ardisce nella centripeta mente, per certezze intermittenti lampi, la semplicità assoluta della nostra definitiva smentita.